Tanto per dire anche la nostra, e siccome una volta che sul mio giornale, sul Super Sound, l'ho scritto, cioè trovavo che forse voi altri del pubblico ci lasciate un pochino. Voi sapete che il nostro lavoro lo facciamo nei night, nei teatri, nei luoghi pubblici, e voi sapete che la nostra libertà è stata di molto decurtata. Cioè stiamo praticamente quasi tutti noi nei guai o spero dire la fame. Stiamo, per avere i colleghi di Roma, io sono arrivato adesso e mi unisco di corsa, stiamo protestando a Piazza San Claudio e è una protesta, è una manifestazione che si fa a oltranza. Stasera, dopo la famosa mezzanotte, il momento in cui ci cacciano via a calci da ogni posto, tutti invitati giù a Piazza San Claudio vi lascio un drink. Che magari sarà un bicchiere di vino, non lo so, comunque a San Claudio che ci vuole venire beve assieme a noi, e poi chi vuole poi domani mattina alle 10:30 venire con noi, andiamo a pigliare le botte dalla Pula e a darci la mano, benvenuto, perché più saremo meno ne prenderemo, giusto? Sì, bravo. Allora ragazzi, penso di contare su tanti di voi. Nel frattempo ci venite o no? Dico, perlomeno a bere, venite, vecchie spugne, bracconi dei bravati, sì o no? Io non bevo, per l'amor di Dio. Dunque, allora, Boni, adesso fa mollo il rovescio della medaglia! Io volevo ringraziare tutti quanti i musicisti che hanno partecipato a questo spettacolo e anche tutti quanti voi che siete intervenuti, cioè, è stato molto bello da parte vostra e da parte loro. Noi vi ringraziamo tutti. Grazie. Quanti di cuore, ecco. Questo è stato molto bello. Thank you.

Thank you. Thank you. ciao Luigi, scusate.